che vuole. La tribù di M2O. D'Agostino. Deve avere un po' di nero mischiato insieme. temere di dover disfare ciò che ho appena fatto. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Cerchio magico. ipnotico elettronico. Misteriosi. La tribù di M2O, Gigi D'Agostino. Movimenti incoerenti. State attenti. movimenti incoerenti. Ogni colore per accendersi deve avere un po' di nero mischiato insieme. Boom, boom. trasportando. Temere di dover disfare ciò che ho appena fatto. M2O, special guest Gigi D'Agostino. Mentale. Thank you.